figlia mia, non ho pensato che un cuore si è distrutto in te mani chi l'ha. Rossina Fontanella e mia zia, ognuno ben a beve se ne va, ma sta qua toia non fa passeta mia. Tu che sta sete tu ma puoi levare. Tu pierdo tiempo e la serenata.